Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Se sui mercati è tornata a farsi insistente la debolezza, abbiamo nemmeno fatto tempo ieri ad ascoltare le parole del numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, che diceva sta tornando un po' di tranquillità sui mercati. Oggi invece non è così: meno 3% Parigi, meno 4,5 Francoforte, meno 3,6 Londra, meno 1,2 il Dow Jones per quello che riguarda gli Stati Uniti, meno 1,5 il Nasdaq. L'Europa quindi perde il doppio in media rispetto a Wall Street. Milano non è tra le peggiori, meno 2,1% il MIB, meno 2,2 l'S&P MIB. Tra i titoli segnaliamo soprattutto Tenaris, meno 8%, Saipem meno 8 e Fiat di nuovo pesante sotto i 5 euro per azione, meno 5,9%, poi Banco Popolare meno 5,8, Prismian meno 5,7 e anche il Monte dei Paschi perde un 5%, Unipol il 4,6, Intesa e Unicredit il 4,5% di calo. E a questo punto Unicredit è a 1,7 per azione, Intesa 2,16 per azione. Questo per quello che riguarda i mercati. Come già sentite, oggi la situazione in Europa è pesante anche e soprattutto per via del settore auto. Molto pesante il settore auto anche negli Stati Uniti. General Motors ha aperto e ha iniziato a perdere più del 10%, così come più del 10% perdeva Ford. In attesa di sapere quando arriverà il piano di Obama, ormai è chiaro che l'amministrazione Bush non ha nessuna intenzione di aiutare il settore automobilistico, mentre per quello che riguarda l'Europa si discute ancora di come organizzare l'aiuto verso la Opel, ma, e lo ha fatto in particolar modo il numero della Fiat, Sergio Marchionne, i produttori europei, la Fiat nel caso specifico, non vogliono che vengano fatte delle discriminazioni, in sostanza che vengano aiutati alcuni costruttori rispetto ad altri. Parleremo di auto, di Alitalia, visto che è slittata qualche indiscrezione dell'agenzia di stampa Radio Core, ipotizzano slittamento sulla scelta del partner estero dopo che ieri il Presidente del Consiglio Berlusconi aveva dato indicazione di preferire la Lufthansa, poi una nota che la correggeva parzialmente, diceva comunque l'unica a scegliere sarà la CAI, stando a numerose dichiarazioni e voci di questi giorni, avrebbe invece o preferirebbe invece l'alleanza con Air France, di cui è già partner. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. Allora iniziamo con le notizie in breve per quello che riguarda le materie prime. Non parliamo solo di petrolio oggi, anche se il petrolio ha aperto in ribasso di quasi un dollaro al barile, 79 centesimi per la precisione, 53,6 dollari al barile, ma parliamo di materie prime agricole, perché secondo il rapporto della FAO, nonostante le buone prospettive per i raccolti del 2008 per i cereali, il prezzo dei cereali e delle materie prime comunque agricole non si fermerà. Nel 2008 nella prima parte è aumentato di un 40% e la crescita complessiva degli ultimi due anni è del 51%, e questo praticamente rende inaccessibili soprattutto per i piccoli produttori arrivare ad acquisire i beni, le materie prime di carattere agricolo. La riforma delle quote latte. Allora, il Parlamento europeo oggi ha approvato la risoluzione sulla revisione della politica agricola, e per quello che riguarda le quote di produzione nazionale l'aumento medio tra il 2009 e il 2014 sarà dell'1%. Però l'Italia potrebbe godere di un aumento delle sue quote latte del 5% tutto subito, cioè a partire dal 1 aprile 2009. È una proposta prevista solo per l'Italia per arrivare a un compromesso sulla revisione della politica agricola comunitaria. Una buona notizia, diciamo, che poi speriamo si traduca in una buona notizia, è quella che riguarda l'Euribor, ossia il tasso interbancario con cui poi si calcola lo spread per il mutuo. Continuiamo a ricordarlo, però vediamo. Intanto l'Euribor è calato, è ai minimi dal maggio del 2007, quindi prima che scoppiasse la crisi, al 4,1%. Vediamo e vedremo se anche i tassi di riferimento per i prestiti alle imprese, ai mutui e alle famiglie caleranno in maniera uguale. Ancora per quello che riguarda l'auto, dicevamo, quindi voi già ci scrivono al 349-238-6666, un attimo di pazienza, arriveremo sul tema. Però oggi il commissario europeo per quello che riguarda l'industria, ossia Günther Verheugen, ha detto: attenzione, i problemi della Opel sono legati esclusivamente alla situazione di crisi della casa madre americana, cioè della General Motors, e questo rappresenta circostanze straordinarie che non valgono per gli altri produttori e che invece giustificano misure eccezionali per la Opel, tant'è che il governo tedesco starebbe valutando lo stanziamento di 1 miliardo di euro a sostegno di Opel. Stando a questa dichiarazione del commissario europeo Verheugen, l'Unione Europea sarebbe orientata a non considerarli a questo punto aiuti di Stato. Però oggi, come ricordavamo, Sergio Marchionne ha detto: attenzione, il numero della Fiat, gli aiuti al settore auto devono essere per tutti o per nessuno, bisogna evitare che si creino interferenze che modificherebbe l'equilibrio industriale dei mercati, una cosa che la Fiat non può accettare. La Gran Bretagna oggi ha adottato una legge, la prima al mondo, che prevede di arrivare al taglio delle emissioni dei gas nocivi, quelli che provocano l'effetto serra, pari all'80% entro il 2050. Adesso ci avviciniamo al tema di apertura. L'allarme lanciato dai commercianti, dalla Confcommercio: consumi in calo anche nei prossimi 3 anni, le difficoltà, i saldi che vengono in molte città quasi anticipati, erano notizie presenti in questi giorni su molti giornali. Allora, se il ministro Tremonti ha definito come i prossimi mostri nel videogame della crisi sono le carte di credito e di debito, le bancarotte societarie e poi il mostro dei mostri, i derivati, che quest'ultimo mostro porterà a rischi incalcolabili, così Tremonti nella sua prolusione all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica. Cito le dichiarazioni di Tremonti, quindi non sono dichiarazioni di stampa. Il pessimismo nei confronti della situazione è del ministro all'economia, non dei giornalisti. Dicevo, così definiti questi nuovi mostri, Tremonti ha fatto un paragone anche abbastanza spiritoso con certi videogame in cui ammazzi i mostri ma ne spuntano sempre di nuovi. Interessante che abbia posto anche l'accento sulle le tensioni sulle carte di credito e di debito, soprattutto in America. Nel frattempo resta la polemica tra banche e imprese, banche e consumatori, nel senso di mutuatari. Allora, dell'Euribor abbiamo appena parlato. Oggi però, qui al Sole 24 Ore a Milano, nel corso del sesto anno all'economia e finanza organizzato dal Sole 24 Ore, il responsabile della divisione corporate di Intesa San Paolo, Gaetano Miciche, ha negato che sia in atto una stretta dei finanziamenti alle imprese, e lo ha fatto al microfono della nostra Roberta Pellegatta. La nostra banca nell'ultimo anno ha dato circa il 12% in più di credito alle imprese di quanto non l'aveva fatto nel 2007, circa 35 miliardi in più, in particolare nell'area corporate circa il 19% in più. E probabilmente non è mai sufficiente, probabilmente c'è sempre qualche imprenditore o qualche azienda che ritiene di essere insoddisfatto, che ritiene di non essere seguita al meglio. Questo io credo che sia naturale quando si ha circa 6.000 filiali sul territorio, e quindi, come ho detto, è difficile soddisfare sempre tutte. La nostra intenzione è quella però di dare credito alle imprese. Il nostro margine di interesse, che è ciò che noi ricaviamo ricaviamo dal dare credito alle imprese è la prima linea del nostro conto economico, quindi è proprio il nostro fatturato deriva dal dare credito alle imprese. Così Gaetano Miccichè. Alcuni di voi mi chiedono di ridare il dato sull'Euribor che ha toccato i minimi dal maggio del 2007 al 4,12%, così non ci sono fraintendimenti, 4,1 non 4,01. Sempre Gaetano Miccichè, ma questa volta su Telecom Italia, visto che Intesa San Paolo possiede il 10,6% di Telco, che è la holding, ossia la società che controlla il gruppo Telecom. Gli altri azionisti, lo ricordo, sono Telefonica, le Generali, Mediobanca e i Benetton con edizione holding. Il 2 dicembre Franco Bernabei, amministratore delegato di Telecom, presenterà il nuovo piano. Molto fiducioso è l'atteggiamento di Miccichè. I risultati che Telecom ha approvati nell'ultima trimestrale sono risultati soddisfacenti che a mio avviso indicano un importante positivo segno di cambiamento nelle performance di Telecom. Quindi ci verrà presto presentato il piano industriale e io sono molto fiducioso. Ancora la vicenda Alitalia. Allora, questa mattina il l'amministratore delegato della compagnia italiana Rocco Sabelli ha consegnato l'offerta perfezionata in ogni suo aspetto al commissario dell'Italia Augusto Fantozzi. Dopo aver avuto l'ok dal comitato di sorveglianza all'offerta della CAI e in attesa dell'autorizzazione del ministro, Fantozzi ha fatto capire che una volta il sì di Scajola accetterà l'offerta della CAI. Sono passaggi, diciamo, formali, ma comunque da compiersi. E sempre il ministro dello sviluppo economico Scajola ha detto che entro il primo dicembre perfezioneranno tutti i dettagli della vendita, i dettagli della vendita verranno perfezionati in modo da arrivare con il primo dicembre all'acquisto definitivo da parte della CAI della nuova Alitalia. Però è stata rinviata a sorpresa la conferenza stampa del commissario straordinario dell'Italia Augusto Fantozzi, e questo non sappiamo se sia da mettere in collegamento, ma comunque qualche ora dopo uno scoop che ha battuto l'agenzia Radio Corriere Sole 24 Ore, secondo la quale, secondo le fonti da lei sentite, slitterà a non prima della fine dell'anno la scelta del partner internazionale di CAI per l'operazione nuova all'Italia. Sappiamo, l'abbiamo detto molte volte, che il partner sarebbe dovuto arrivare proprio in questi giorni. Secondo quanto risulta Radio Corriere, invece, è stato deciso, dopo le dichiarazioni di ieri del Presidente del Consiglio Berlusconi a favore di Lufthansa e dopo che i tedeschi sono tornati alla carica con grande determinazione e intensità, si è deciso di prendere tempo. Avremo oggi anche uno spazio dedicato ai pendolari, perché vera e propria emergenza tra i pendolari, zero risorse nella finanziaria per i servizi essenziali e per i nuovi treni, Stato e regioni che investono sulle strade a danno delle ferrovie. L'allarme lo ha lanciato oggi la Lega Ambiente, che ha presentato oggi il rapporto sui pendolari nel nostro paese. Ne parleremo, mancano completamente i soldi sia dello Stato che delle regioni che spesso hanno in carico il servizio. 349-238-6666, partiamo da questo viaggio nella crisi, che non è più un viaggio nella crisi finanziaria, ma un viaggio nella crisi tout court, nella crisi economica. Ieri abbiamo parlato del mondo delle costruzioni, oggi parliamo del mondo del commercio. Eh sì, perché non solo le vendite al dettaglio nei primi 8 mesi, poi andranno anche peggio da quello che abbiamo visto, sono tutte in calo, ma la Confcommercio oggi lancia un allarme e dice: attenzione, i consumi in Italia saranno in calo per i prossimi 3 anni. Meno 0,5 quest'anno, meno 0,5 nel 2009 e meno 0,4 nel 2010, a soffrire soprattutto alimentari e bevande con un calo dell'1,2%, ma anche abbigliamento, calzature, ricreazione e tempo libero. Tra l'altro abbigliamento e calzature appunto mezzo punto percentuale di calo. Fermi invece i beni durevoli. E poi il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli che chiede di detassare la tredicesima, ma il ministro Tremonti l'ha chiaramente escluso da quello che abbiamo letto, e rivedere gli studi di settore. Dottor Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studio della Confcommercio, che ha elaborato questi dati. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto ci faccia capire sulla base di quali elementi siete arrivati a prevedere addirittura 3 anni consecutivi di calo dei consumi. Sì, ecco, io non... Questo valore, mi scusi, è tra l'altro è all'ordo dell'inflazione o tiene conto dell'inflazione anche? Perché sennò è più forte. No, è in termini reali. Cioè in termini reali, perfetto. Dell'inflazione, no? Se no sarebbe veramente... preoccupante, sì. Un disastro, no? Ecco, dunque, non voglio contribuire a fare comunicazioni ansiogena, perché poi verremo sgridati. I 3 anni che lei correttamente indicava includono comunque già il 2008, e il 2008 c'è poco da fare, storia, lo dice anche l'Istat, che c'è un calo dei consumi significativo nei primi 6 mesi dell'anno, che verosimilmente proseguirà anche fino alla fine di questo mese di dicembre. La base per fare una riflessione sui consumi in prospettiva è semplicemente questa: se abbiamo già una riduzione del PIL nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, del 2007, vuol dire, come tutti sappiamo, che in Italia viviamo una crisi che è al di là e a prescindere dalla crisi, diciamo, strutturale dei mercati finanziari che si è verificata negli ultimi mesi. Quindi i consumi sono in discesa per cause differenti. Ora, se ci sommiamo a queste cause strutturali italiane quelle che riguardano la riduzione della ricchezza finanziaria di quasi il 10% in termini reali nel 2008, dobbiamo immaginare di avere alcuni trimestri, secondo noi almeno fino alla fine del 2009, in cui i consumi perlomeno non cresceranno. E cioè, se i consumi rimarranno ai livelli degli ultimi trimestri del 2008, per tutto il 2009 avremo quella riduzione significativa di meno 0,5 punti percentuali. Nel 2010 ci domandiamo che cosa può fare radicalmente cambiare la nostra situazione oggi, se abbiamo un debito pubblico elevato che non ci permette di ridurre in maniera stabile e sostanziale le imposte, abbiamo la prosecuzione delle nostre debolezze strutturali in termini per esempio di infrastrutture. Cioè, non ci pare che vi siano elementi all'orizzonte che possano fare cambiare il ciclo, e quindi la riduzione è tutto sommato moderata, ma è lunga. Quindi ci sarà un periodo forte di sacrifici per le famiglie, e ovviamente saranno più colpiti i redditi più bassi. Allora, dottor Bella, visto che anche lei ricordava come ci sono delle cause nostre al di là della crisi finanziaria e economica mondiale, che chiaramente poi non aiuta, anzi andrà a peggiorare la situazione, ma insomma in Italia i consumi sono fermi da qualche anno in termini reali. Ora, noi sappiamo che se i consumi possono ripartire, per carità, se c'è fiducia nell'economia, se i giornalisti la smettono di essere così negativi, però in generale i consumi ripartono perché uno ha qualche soldo in più in busta paga, al di là di quello che scrivono i giornali, certo. Così. Ora, qui stiamo ragionando di un passaggio, mi dispiace tornare ancora una volta su questo tema, lira-euro, che secondo molti rapporti, a parte della Banca d'Italia, ultimo rapporto, lavoro autonomo ha avuto un aumento in media del 14% negli ultimi 8 anni, lavoro salariato è rimasto fermo. Visto che voi chiedete anche di rivedere gli studi di settore, ma non avrebbe senso fare quasi un patto, un patto sociale, sì, e cioè capire che tanto il mondo del commercio resterà in ginocchio finché non riparte il potere d'acquisto dei pensionati e dei lavoratori dipendenti? È inutile chiedere poi la revisione degli studi di settore, perché magari ci risparmi qualcosa di fisco, ma comunque non vendi. Cioè, chiedere in maniera più insistita al governo o alle istituzioni comunque di operare sul lavoro in busta paga, che converrebbe anche a voi complessivamente, certo. Dati. Certo, allora lei qui mi fa una decina di domande alle quali non posso rispondere. Lo studio della Banca d'Italia che lei cita sul lavoro autonomo e lavoro salariato, bisogna come dire analizzarlo bene. Non aumenta la quota del lavoro autonomo, cioè non sono i liberi professionisti commercianti che hanno più reddito nel corso degli anni, aumenta il reddito pro capite perché si sono ridotte le unità di lavoro autonomo, mentre sono cresciute quelle di lavoro dipendente. Consideri che nel lavoro autonomo sono conteggiati anche le posizioni dei collaboratori occasionali. Questo tanto per dire il problema del lavoro autonomo, lavoro salariato. E rispetto a una manovra generale di riduzione della pressione fiscale, mi pare che noi abbiamo insistito ormai da almeno 2 anni su questo punto, e l'ultima proposta è questa sulla detassazione delle tredicesime. Si noti che la detassazione delle tredicesime andrebbe a premiare i lavoratori dipendenti, non i commercianti, tra virgolette, o i lavoratori autonomi. Tra l'altro, noi facendo questa proposta non siamo affatto sicuri che poi le persone, una volta che hanno reddito in più, lo spendano nei nostri negozi. Quindi è una proposta di tipo generale, non è una proposta di tipo, come dire, lobbistico o sindacale. Però purtroppo sembra che il governo sulla detassazione delle tredicesime, totale o parziale, non abbia una propensione. Però questo, devo dire, un po' mi dispiace, perché capisco che non risolva i problemi del paese, del resto una detassazione non può risolvere i problemi del paese, però farci entrare con maggior fiducia nel 2009 era una cosa che, insomma, poteva significativamente aiutare il paese. Costa tanto, costa tra i 6 e i 7 miliardi dalle stime che abbiamo visto anche su Sole 24 Ore, per cui ci sarà anche un motivo di finanza pubblica, poi bisogna decidere come usare i soldi. Certo dottore, dunque 7 miliardi, forse anche qualcosina in più. Sì, anche 8-9 forse. Se detassiamo totalmente tutte le tredicesime, si può anche decidere, c'è la distribuzione dei redditi, purtroppo non è molto aggiornata, l'IRPEF arriva al 2005, il governo avrà sicuramente le stime sul 2006, si poteva fare anche una cosa per favorire i redditi più bassi, e quindi con un costo di 3-4 miliardi che, si noti bene, nessuno ha mai valutato nella sua interezza, non l'abbiamo fatto nemmeno noi per cautela, dopo che si dà questo sgravio fiscale, questa detassazione, ci saranno verosimilmente un po' di consumi aggiuntivi, l'attività economica crescerebbe, anche se marginalmente, è una quota di IRPEF e di IVA, rientrerebbe. Sì, no, ho capito, lei dice che questi 3 miliardi, poniamo che siano 3 miliardi, chiaramente avrebbero un effetto virtuoso. Un po' sì. Non sappiamo quanto, perché sappiamo benissimo che anche lì sì, la propensione al consumo è anche una propensione orientata psicologicamente, altrimenti uno questi soldi li mette in banca o li mette dove vuole. Un'ultima domanda, dottor Bella, tra i settori dov'è che vedete le maggiori tensioni? Perché sappiamo che, per esempio, i prezzi, non lo dico io, dice l'Istat, dei generi a largo consumo viaggiano a livelli doppi di inflazione rispetto all'inflazione generale, e lì c'è qualcuno che il furbo l'ha fatto in questi anni. Parlo di tutto, cioè non dico solo di chi li vende, ma quelli hanno una tendenza di crescita inflattiva che è almeno doppia. Però e sono anche i beni, essendo a largo consumo, e anche beni abbastanza essenziali che tendono a essere meno sensibili alle contrazioni economiche, cioè, paradossalmente si rinuncia magari a beni che non erano nemmeno cresciuti come prezzo. Dove vedete le maggiori tensioni? Le maggiori tensioni sono, per l'anno in corso, diciamo fino a dicembre, anche i primi mesi del 2008, avremo dei problemi sugli alimentari, perché i prezzi stanno scendendo, scenderanno, ma con lentezza, quindi fino a un certo punto, almeno all'inizio del 2009, avremo dei problemi sugli alimentari. Io sono particolarmente preoccupato per quello che riguarda i consumi fuori casa, bar, ristoranti, alberghi, ricreazione, tempo libero. Questi beni fino adesso non hanno avuto delle riduzioni significative, ma nello scenario che abbiamo prospettato, uno scenario critico, probabilmente i loro consumi si ridurranno significativamente sia nel 2009 che purtroppo anche nel 2010. Va bene, staremo a vedere poi che tipo, tanto lo scopriremo tra venerdì e l'inizio della prossima settimana, quando il governo a questo punto presenterà il decreto complessivo per banche, anche imprese e cittadini. Vedremo che misure poi effettivamente vi saranno per ridare un po' di potere d'acquisto e cercare di dare un'iniezione ai consumi italiani. Grazie per ora al responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio, il dottor Mariano Bella. Buonasera. Adesso, buonasera di nuovo a lei. Adesso le informazioni in meteo, la pubblicità, poi parliamo di borsa. A Milano tutto sommato nemmeno così male, meno 2,5% la chiusura, molto male a Francoforte, meno 5,2%, Parigi meno 4,1%, Londra meno 4,1%, Francoforte sente molto l'andamento dell'auto, da noi Fiat ha perso il 5,9% sotto i 5 euro per azione a 4,96 euro. 17:36 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, molti di voi, abbiamo fatto l'approfondimento concluso da poco sul tema del commercio, molti di voi chiedono in realtà che i commercianti, che il mondo del commercio abbassi i prezzi. Certo, quella potrebbe essere un'altra soluzione, bisogna vedere quanto è praticabile a seconda dei margini, non tutte le categorie hanno infatti gli stessi margini. Quando i prezzi calano si chiama deflazione, e in America stanno arrivando, e non è sempre una bella notizia, anzi la deflazione è uno spauracchio per gli economisti, ma dicevo, dall'America stanno arrivando i primi segnali di deflazione. L'agenzia ANSA infatti ha appena battuto la notizia per cui i prezzi al consumo, quindi l'inflazione americana, ha fatto un meno 1% nel mese di ottobre. È la maggiore flessione dal febbraio del 1947, cioè da 61 anni. Gli analisti parlano di un primo segnale di deflazione. I prezzi stanno rispondendo rapidamente al calo della domanda. E tra l'altro le costruzioni di nuove case in America sono calate del 5% nel mese di ottobre, il livello più basso del 1959. Chiedete perché la deflazione fa paura? Beh, perché il principio che scatena, ne abbiamo parlato già altre volte, che se ci sono attese di prezzi in calo, la gente rinvia gli acquisti pensando che più avanti pagherà meno. Ecco perché la deflazione non è una bella, non è una bella bestia, oltre che per altri motivi. Questo per quello che riguarda il mondo del consumo e del commercio. Adesso la borsa e anche il rapporto banche-imprese. Perché dico banche-imprese? Perché abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Gaetano Michichè, e quindi di chi in Banca Intesa San Paolo ha la responsabilità anche del rapporto con le grandi imprese, è infatti responsabile della divisione corporate di Intesa San Paolo, e quale ha detto: guardate che noi non stiamo stringendo sui prestiti, sono un asset fondamentale, sono un'azione fondamentale per noi, i prestiti alle imprese. Va detto, non abbiamo motivo per dubitarne, così come è vero che anche Unicredit ha lanciato una linea da 5 miliardi di euro per le piccole e medie imprese. Però adesso arrivano delle notizie dall'ABI, dall'Associazione delle Banche Italiane, non certo dai giornalisti. E allora, gli impieghi bancari complessivi, non delle singole banche, sono calati. Gli impieghi è il modo in cui le banche usano i soldi che raccolgono. La crescita è stata infatti lo scorso mese del 4,7% contro il 6,6% di settembre, e in particolare, dice l'ABI, non la stampa, ha frenato la dinamica nei finanziamenti alle famiglie, ossia i soldi, i prestiti alle famiglie sono letteralmente crollati. Nel settembre del 2007 avevano fatto un più 8,6%, nel mese di settembre del 2008 erano appena al più 1,6%. L'ABI invece smentisce che vi siano state contrazioni e limitazioni di credito alle imprese, però gli impieghi complessivamente calano. E ha anche fatto notare, ora è appena uscita l'agenzia, che il tasso medio applicato alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, quindi il mutuo, è stato al 5,74% rispetto al 5,8% del mese precedente. Questo per quello che riguarda i tassi sui mutui calati, di poca roba però, dal 5,8% al 5,74%. Vedremo se invece poi a novembre avremo un calo di circa un punto percentuale, visto che di tanto è calato il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. Lunga la premessa, rapidi sui mercati: meno 2,6% MIB, meno 2,9% l'S&P MIB, Parigi meno 4, Francoforte meno 5, l'America ora perde il 2,1%, Londra ha perso il 4,5%. Livia Zancaner, Radio Cor, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, come mai la Germania e anche la Francia nettamente peggio dell'Italia? Allora, la borsa di Francoforte ha risentito in particolare della performance negativa del gruppo BASF, che ha perso oltre il 14% dopo aver annunciato un piano di riduzione della produzione nel mondo e aver rivisto ancora una volta a ribasso le previsioni per il 2008. Per quanto riguarda Parigi, allora, il listino è stato trascinato al ribasso per quanto riguarda l'indice principale, in particolare dalle banche, quindi BNP Paribas, che ha perso quasi il 12%, meno 11,8%, seguita da Vallourec, che ha perso il 10% della concorrente francese dell'italiana Tenaris. E quindi questo spiega anche l'altro andamento. Allora, l'America sta leggermente peggiorando, ma non in maniera drammatica, meno 2%, vanno molto male, questo sì lo confermo, i titoli auto negli Stati Uniti, General Motors e Ford. Com'è andato il settore auto in Europa? Allora, il settore auto in Europa ha chiuso con una flessione più o meno del 6%. Allora, ovviamente è il settore che sta risentendo maggiormente della crisi economica. Basta vedere, appunto, come dicevi tu, le performance delle società americane che hanno chiesto l'intervento dello Stato per far fronte alla crisi, ma Paulson, che è il segretario al Tesoro, ha detto che le risorse del pacchetto anticrisi saranno orientate alle banche e non quindi ai gruppi industriali come si era ipotizzato in precedenza. Comunque le performance peggiori sono state quelle registrate a Parigi, quindi da Renault e da Peugeot, con Renault in calo del 9,6% e Peugeot dell'8,6%. Bisogna ricordare che Renault, praticamente l'amministratore delegato di Renault, ha rivisto al ribasso le previsioni sul margine operativo di fine anno. A Milano la Fiat ha perso il 5,5%. Eh sì, ed è sotto i 5 euro per azione, a 4,98 euro, poi vedremo il prezzo finale. Comunque, restano le difficoltà nel settore, ne parleremo fra un attimo, ecco perché volevo una panoramica, Livia, del settore in Europa, perché poi la Germania vuole aiutare la Opel, Marchionne, quindi la Fiat, ha detto a piano con gli aiuti a un solo gruppo costruttore. Ne parliamo tra qualche secondo. Andiamo avanti invece con i titoli, perché Telecom Italia ormai si inizia a fare il conto al rovescio sul piano industriale del prossimo 2 dicembre, ma il titolo ha guadagnato l'1,7%. Sì, allora bisogna dire che le azioni Telecom hanno innescato una risalita a partire dal 12 novembre, che ha portato quindi l'azione a guadagnare il 10% in 6 sedute, azione che probabilmente quotavano a sconto rispetto ai competitor europei. Quindi il mercato è in attesa del piano del prossimo 2 dicembre, tutte le attese sono concentrate lì, in quanto il management ha sempre tenuto il massimo riservo sui piani futuri della società. Oggi Gaetano Micicchè, che è responsabile di Intesa San Paolo, divisione corporate e consigliere di Telecom, ha detto di essere molto fiducioso sul piano e quindi sono le attese che in questi giorni stanno tenendo al rialzo il titolo. Sì, sentiamolo Micicchè su Telecom Italia, perché l'ha raggiunto sempre la nostra Roberta Pellegatta. Gaetano Micicchè sul piano industriale del prossimo 2 dicembre. I risultati che Telecom ha approvati nell'ultima trimestrale sono risultati soddisfacenti, che a mio avviso indicano un importante positivo segno di cambiamento nelle performance di Telecom. Quindi ci verrà presto presentato il piano industriale e io sono molto fiducioso. Vuol dire, parla a ragion veduta Gaetano Micicchè, perché Intesa San Paolo ha il 10%, 10,6 se non ricordo male, della Telco, che è la società che poi controlla Telecom Italia. Andiamo avanti, Livia, con i titoli. Mediaset, e oggi il comparto media è andato abbastanza bene. Mediaset ha chiuso con uno 0,2% di rialzo, Mondadori più 1,6%. Sì, allora, e l'Espresso più 0,4%. Sì, allora Mediaset prima guadagnava di più, poi appunto ha chiuso sulla parità e praticamente si trova in una fase di risalita il titolo da 3 sedute in cui ha guadagnato il 3% circa. Bisogna dire che le azioni, così come tutto il comparto editoriale, sono state molto penalizzate nelle scorse 2 settimane, tant'è che dal 4 novembre, alla chiusura di venerdì, il titolo ha perso quasi il 20%. Comunque già ieri le quotazioni di Mediaset avevano beneficiato delle parole del vicepresidente per Silvio Berlusconi, il quale aveva detto di non vedere motivi per tagliare il dividendo, che è pari a 0,43 euro per azione. Invece nessun dividendo in contanti confermato per quello che riguarda Intesa San Paolo oggi dal presidente del Comitato di Garanzia, mi riferisco a Enrico Salza. Ha detto infatti Salza: gli azionisti quest'anno faranno una cura dimagrante, non voglio avere soldi dallo Stato per poi darli agli azionisti, che significa, ed è questo il motivo per cui noi non verseremo una cedola in contanti per l'esercizio in corso, quindi il dividendo non sarà in contanti, sarà, immaginiamo, sotto forma di azioni. (Musica) Allora, Livia Zancaner, altri titoli: sebbene è andata l'automatica più 2,7, Telecom più 1,7 come Bulgari e Mondadori, Finmeccanica più 1,4 come Atlantia. Pesante, tu l'hai già ricordato il motivo, Tenaris meno 9,4, Saipem meno 8,9, Prismia meno 6,3 come il Banco Popolare e Unicredito perde il 6,2, Intesa il 5,7, Impregilo il 5,6, Monte dei Paschi meno 5,5 come Fiat, Unipol meno 5% come Geox. Prismian in due settimane ha perso quasi il 30%, Livia. Allora, infatti la società nelle ultime due settimane ha perso oltre il 28-30%, nonostante la società abbia comunque riportato conti positivi con ricavi in crescita del 4,5% e abbia confermato il target di margine operativo lordo per fine anno. Secondo gli operatori la motivazione di queste ultime settimane per il calo di Prismian è bene o male sempre la stessa, cioè la società è oggetto di vendite da parte di hedge fund e fondi di investimento, considerando che il titolo è in mano soprattutto a investitori istituzionali, molti dei quali sono costretti a vendere. L'anno scorso, infatti, quando Goldman Sachs aveva collocato una parte della quota, oltre il 10% era stato venduto proprio ai investitori istituzionali, che probabilmente adesso stanno vendendo. E quindi, diciamo, ecco il motivo di un calo, insomma, che sfiora il 30%. Livia Zancaner, grazie a nome di tutti e anche degli ascoltatori. Adesso cambiamo, anzi restiamo sul tema. Il settore auto si delinea una posizione abbastanza diversa tra alcune case costruttrici europee e la linea e la scelta che vorrebbe fare, si presume entro Natale, il governo tedesco. Parliamo infatti del settore auto europeo, anche se oggi fa notizia di nuovo il crollo di General Motors, più del 10% di calo, e anche Ford più del 10% di calo. Settore auto europeo, che cosa è successo? Oggi il commissario europeo all'industria, Gunther Verheugen, ha detto: attenzione, i problemi della Opel sono problemi straordinari perché sono legati esclusivamente alla casa madre, che si chiama General Motors e sta notoriamente in America, per cui queste circostanze straordinarie non valgono per gli altri produttori e giustificano misure eccezionali. Solo che sempre oggi il numero della Fiat, Sergio Marchionne, ha detto: o gli aiuti al settore auto valgono per tutti oppure per nessuno, altrimenti si crea un'interferenza che modifica l'equilibrio industriale dei mercati. Andrea Malani, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, si sta profilando un braccio di ferro tra alcuni produttori di auto e le decisioni che dovrebbe prendere non tanto la Germania, ma soprattutto l'Europa, perché noi sappiamo che c'è una regola ferrea, o dovrebbe essere così in Europa, che proibisce gli aiuti di Stato. Non a caso, nel caso di Alitalia, dovrà restituire 300 milioni di prestito ponte. Come mai, diciamo, l'abbiamo parzialmente capito, l'Europa non ritiene 1 miliardo di euro della Germania alla Opel un aiuto di Stato, e soprattutto, secondo te, quale soluzione potrebbe trovarsi? Beh, è molto difficile dirlo, la situazione è molto complicata. Intanto ricordiamo che anche negli Stati Uniti non tutti sono d'accordo col fatto di salvare i costruttori di Detroit. È chiaro che la situazione americana è diversa da quella europea, nel senso che la crisi congiunturale che c'è dappertutto si somma negli Stati Uniti a una crisi di competitività storica dei tre grandi americani, che quindi hanno i conti in rosso, hanno perso quota di mercato, eccetera. Effettivamente loro, ormai è chiaro, non potranno salvare senza i soldi dello Stato, mentre invece ciò non sarebbe vero in Europa. Ovviamente però quello che temono i costruttori europei, dalla Fiat ai tedeschi e ai francesi, è che questi soldi, che potrebbero arrivare fino a 50 miliardi di dollari dati agli americani, li tengano in piedi e quindi esercitano una pressione competitiva maggiore sui concorrenti, che invece qualora i concorrenti non riescono gli stessi aiuti. Chiaro che quindi il rischio è che si vada verso una guerra di aiuti sulle due sponde dell'Atlantico, che da un certo punto di vista perpetui una situazione di squilibrio competitivo, nel senso che è chiaro che se i soldi andassero tutti si rimarrebbe in una situazione, diciamo, di equilibrio, ma di equilibrio alle condizioni di prima, quindi con costruttori più o meno competitivi, e quindi si manterrebbe probabilmente, per esempio, una situazione di sovrapproduzione rispetto a quello che è quello che il mercato è in grado di assorbire, quindi con conseguenze che verrebbero protratte nel tempo. Però è chiaro che è molto difficile trovare una soluzione ragionevole, perché nessuno può fare un passo indietro dicendo d'accordo, il singolo governo, tanto più in Europa nazionale, quindi quello tedesco, quello italiano, dicendo no, io non do gli aiuti perché il mio costruttore e i miei costruttori non ne hanno bisogno, perché rischierebbe subito dopo di vedere i propri produttori e quindi le proprie fabbriche svantaggiate rispetto a un concorrente che abbia avuto i fondi statali. L'ideale sarebbe mettersi tutti attorno a un tavolo, ma è altrettanto chiaro che, data la situazione di assoluta emergenza, questa sì, dei costruttori americani, Washington andrà probabilmente per conto suo e deciderà. Sì, addirittura in America, Andrea, non c'è nemmeno accordo tra la gestione Bush e quella futura di Obama, perché se Paulson ha detto ma noi non faremo nessun aiuto alle case costruttrici di auto, cioè, ve lo scordate, gli 800 miliardi servono alle banche e alle società finanziarie, invece Obama non ha mai fatto il mistero di voler dare almeno 25 miliardi da quando arriverà alla Casa Bianca, e questo, come tu ricordavi, potrebbe creare una concorrenza sleale, scorretta, di là dall'oceano. Se poi ci mettiamo anche gli aiuti alla Opel, certo. Dicevo, se ci mettiamo poi anche gli aiuti alla Opel, è chiaro che poi produttori francesi, italiani, ma anche gli altri tedeschi, beh, storcono un po' la bocca. È chiaro, perché tra l'altro, paradossalmente, dei fondi dati alla Opel in Germania potrebbero aiutare la casa madre negli Stati Uniti, sì, è vero, a resistere, e quindi a fare concorrenza, per esempio, agli altri costruttori in tutti i mercati mondiali. Cioè, i vecchi marchi tedeschi o gli euro attuali che i contribuenti tedeschi daranno alla Opel se passerà il piano della Merkel, magari aiuteranno la casa madre General Motors a fare concorrenza poi magari alla BMW o all'Audi, per cui sarebbe abbastanza paradossale. Grazie Andrea Malan, del Sole 24 Ore. Diciotto e 10 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, per parlare adesso dei trasporti, ma non dell'Alitalia, non degli scioperi che continuano a bloccare, a lasciare a terra gli aerei a Linate, Malpensa e Fiumicino, ma di altri molto meno fortunati lavoratori e studenti, i cosiddetti pendolari. 14 milioni di persone al giorno che si spostano per motivi appunto di studio o di lavoro, 2 milioni di questi utilizzano il treno, non tutti i pendolari sono in treno. Allora, la domanda di treni pendolari tra il 2001 e il 2007 è aumentata del 14,5%, quindi c'è domanda, la gente vuole utilizzare il treno. Sapete che fine hanno fatto gli investimenti nello stesso periodo? Meno 3%, cioè si spendeva 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2000, si spende 1 miliardo e 100 milioni nel 2007, questo non tiene conto dell'inflazione, per cui il calo è più alto. Quest'anno poi mancano 400 milioni di euro per mantenere il servizio sui livelli attuali, fondi non previsti nella finanziaria 2009. Secondo il Censis, poi tra l'altro, il 70% di chi non utilizza il treno sarebbe disposto a farlo se ci fosse un miglioramento del servizio, e questo assieme ad altri dati nel rapporto di Legambiente diffuso oggi. Il responsabile dei trasporti Edoardo Zanchini ha fatto il punto con la nostra Paola Nania. L'insieme del servizio, cioè il numero di treni che poi circolano, il tipo di treni, dipende da finanziamenti che sono in parte statali e in parte regionali. I finanziamenti statali sono sostanzialmente fermi da anni e mancano nella legge finanziaria almeno 400 milioni di euro per nell'ultima, sì, per garantire almeno i servizi essenziali. Invece, per quanto riguarda le regioni, noi abbiamo fatto proprio un approfondito studio degli investimenti che le regioni hanno dato nei propri bilanci e escono dei dati scoraggianti. La migliore regione, che è la Toscana, non arriva allo 0,4% del PIL, tutti gli altri ancora meno, nel senso una miseria. Come finanziamenti destinati? Sì, una miseria rispetto ai bilanci regionali. Ovviamente c'è chi fa meglio e chi fa peggio, però naturalmente il quadro generale è di regioni che non hanno investito per il servizio. non sono mai arrivati i 1000 treni che erano stati annunciati qualche anno fa. Non sono proprio mai partiti, nel senso che quando furono annunciati fu anche detto che sarebbero stati finanziati nel tempo con un concorso di risorse pubbliche dello Stato, poi le regioni avrebbero dovuto metterci una parte di risorse e una parte di Trenitalia, solo che il governo di allora, che era il governo Prodi, non mise mai queste risorse ed oggi non se ne sente parlare, per cui in realtà quello che sappiamo è che a malapena si riuscirà a salvare il servizio se si trovano questi 400 milioni questi giorni per la finanziaria, altrimenti non è che si tratta di avere nuovi treni, proprio si tratta si taglieranno le linee. Ma da 1000 nuovi treni a forse la chiusura delle linee, certo che occorrerebbe che il paese desse anche delle priorità anche in tema di politica dei trasporti, come si chiama con una frase un po' roboante. E vabbè. Comunque, nel frattempo la nostra Palonania ha raccolto anche la insoddisfazione, per usare un eufemismo, degli utenti. Ne abbiamo scelto un paio, una in Liguria e una in Campania, in modo da dare nord e sud del paese. Sentiamo Sonia Zarino, rappresenta i pendolari della Liguria, e sentiamola sempre al microfono della nostra Palonania. Io ho constatato un costante peggioramento, specie negli ultimi 5 anni, come tempi di percorrenza, puntualità, pulizia. E quello che è una cosa peggiorativa è sicuramente la mancanza di coordinamento anche con gli altri mezzi di trasporto, cioè anche a livello interregionale si sono a volte spezzate delle relazioni e si sono invece introdotti per esempio dei treni più costosi, non migliorando il servizio ma semplicemente peggiorando quello che c'era prima. Più costosi cosa significa? Costa di più il biglietto ma il treno rimane vecchio? Beh, quello è una cosa, perché a volte si camuffano da treni nuovi, treni che in realtà sono vecchi, e poi si aumenta il biglietto. Ma c'è un altro aspetto, è un aspetto importante, per esempio tutti questi disservizi creano veramente una perdita globale per l'economia italiana, secondo me, perché poi anche in termini di produttività basterebbe recuperare quelle 100 ore in media che un pendolare perde all'anno e si vedrebbe quanto questo tempo potrebbe essere utilizzato meglio. Insomma, sicuramente qualcosa non funziona. Allora ci chiedete anche qualche indicazione sulle cifre. 14 milioni di persone, secondo il rapporto di Legambiente, sono i pendolari in senso lato, cioè chi si sposta ogni giorno, compie un tragitto per andare a lavorare o a studiare. 2 milioni di questi ogni giorno si muovono in treno. E allora, dalla Liguria alla Campania, il rappresentante dei pendolari napoletani, Antonio Trani, descrive tra l'altro luci ombre anche in merito all'introduzione dell'alta velocità nella tratta Roma-Napoli. Sentiamolo sempre con la nostra Paola Nania. La TAV ci ha soltanto aiutato in termini di tempo e di qualità della vita, fino ad oggi, perché da qualche settimana a questa parte non ci sta aiutando in termini di tasca e di stipendi. A causa degli aumenti? A causa degli aumenti. Trenitalia dice a causa di una modifica alle tariffe, ma è un aumento mascherato, perché prima noi al massimo arrivavamo a spendere 280 euro mensili, mentre adesso a parità di servizio possiamo arrivare a spendere 420 euro, quindi con 140 euro di aumento. Io ricordo che l'Intercity prima impiegava meno di 2 ore, 1 ora e 57, però la strategia è stata aumentare i tempi di percorrenza dell'Intercity, infatti adesso ci sono Intercity che vanno dalle 2 ore e 9 alle 2 ore e 16 minuti di percorrenza tra Roma e Napoli. Per far cosa? Per evidenziare il tempo di percorrenza dell'alta velocità, che è 1 ora e 27, quindi hanno aumentato di un quarto d'ora il tempo dell'Intercity per far apprezzare ancora meglio l'alta velocità. Non solo, tutti gli Intercity che c'erano prima sulla tratta non ce ne sono più, ce n'è uno soltanto la mattina. Allora io non so se veramente le FS abbiano aumentato di una decina di minuti la percorrenza sulla Roma-Napoli per mettere più in risalto quanto è veloce la TAV, non so, così mi sembra un po' improbabile come spiegazione, ma tant'è. Dunque, è arrivato nel frattempo il via libera del ministro Scajola all'offerta della CAI, via libera molto attesa l'offerta della CAI per Alitalia. L'offerta non varrà meno di 1 miliardo e 52 milioni di euro. Questo infatti quanto ha autorizzato oggi il ministro Scajola, poco fa, un minuto fa, autorizzato infatti il commissario straordinario dell'Italia Augusto Fantozzi a procedere alla vendita degli asset della compagnia richiesti dalla società CAI. La CAI si prende un pezzo infatti di Alitalia a un prezzo non inferiore a 1 miliardo e 52 milioni di euro contro un'offerta originaria di 1 miliardo, cioè sono 52 milioni di euro in più da quello che vediamo, ma non è su questo diciamo che si faranno i giochi. Allora, ultimo tema, Alitalia. Se è arrivata, ed è arrivata proprio in questi istanti l'attesa via libera del ministro Scajola, non è invece, non vi è stata oggi nessuna conferenza stampa del commissario straordinario Fantozzi, e soprattutto potrebbe non arrivare nei tempi previsti il nome del partner internazionale. Perché? Beh, lo ha scritto oggi Unica tra le agenzie, l'agenzia di stampa Radio Cori, Sole 24 Ore, slitta almeno a fine anno la scelta del partner estero di CAI. Tutti abbiamo letto e anche detto qui che l'intenzione della CAI, quindi di Colaninno e di Sabelli, era andare verso Air France perché c'è già un'alleanza in corso, perché non dovrebbe pagare una penale, non avrebbe costi per ricreare la rete e il network. Ieri però nell'incontro con Angela Merkel, il presidente del Consiglio Berlusconi ha detto chiaramente a noi piace di più l'ipotesi Lufthansa, poi c'è stata una piccola correzione, ha ribadito che deciderà solo ed esclusivamente la CAI, ma insomma è sempre il presidente del Consiglio che parla. Allora io vorrei capire come mai Radio Cor dice che addirittura potrebbe slittare fino alla fine dell'anno, e lo vorrei fare con chi ha avuto queste indiscrezioni. Giovanni Bracco di Radio Cori su 24 ore, buonasera Giovanni. Buonasera. Che cosa, ovvio che le fonti non me le puoi dire, ma insomma che cosa vi risulta? Le dichiarazioni di Berlusconi a favore di Lufthansa dopo l'incontro con Angela Merkel hanno ringalluzzito i tedeschi. I tedeschi sono tornati in campo con grande determinazione per contrastare l'offerta di Air France, che fino a ieri era nettamente favorita. Ci sono anche ragioni politiche, non soltanto di diplomazia estera, ma politiche interne che versano a favore di Lufthansa, perché l'offerta dei tedeschi favorisce o Malpensa, per meglio dire penalizza di meno la Malpensa, certo. E naturalmente la Lega guarda con molto favore a una soluzione di questo genere. Per cui da un lato, come scrivono già oggi i giornali, la Lega che spinge sulla Malpensa, e dall'altro anche una così, dichiarazione resa nel corso del vertice italo-tedesco, hanno riaperto la partita su Lufthansa. Domanda, quando decideranno? Perché noi avevamo capito che vi fosse una tabella di marcia abbastanza serrata in Alitalia, ci siamo già abituati nel passato ad avere tabelle di marcia che cambiavano con Alitalia, però quando dovrebbe arrivare la notizia del partner? La notizia del partner, stando a quello che è emerso oggi, dovrebbe arrivare non prima della fine dell'anno. E si capisce anche perché CAI ha molto interesse a portare i francesi e i tedeschi a una sorta di competizione fra di loro, anche per naturalmente per spuntare le migliori condizioni possibili. CAI non ha un grandissimi assi nelle sue mani, quindi comunque si tratterà di un partner che vorrà avere voci in capitolo, e Lufthansa chiedeva di avere voci in capitolo, chiedeva subito il comando delle operazioni e chiedeva anche di avere il 49% della società. Negli ultimi giorni i tedeschi hanno ammorbidito questa posizione. Air France si è detta invece subito favorevole a prendere soltanto il 20% per ora della nuova Alitalia, poi si vedrà. È noto che le ipotesi degli osservatori versano a favore di una vendita a termine al partner straniero nel giro di 4-5 anni. Allora, tra l'altro vi segnalo come notizia di servizio, parliamo di casa nostra, che dopo l'accordo oggi del Sole 24 Ore con Fastweb vi sarà un canale, quindi anche sulle notizie che riguardano l'Italia, di economia e finanza, realizzato in collaborazione con il gruppo Sole 24 Ore, con approfondimenti, commenti e articoli realizzati dai giornalisti del gruppo. Detto questo, l'ultima cosa che vorrei capire è che cosa, o non so, a tuo avviso, come mai il governo preferisce, lasciamo stare la posizione della Lega, ma preferisce Lufthansa, mentre la CAI non ha mai fatto mistero di vedere con più interesse Air France. Della CAI abbiamo capito perché, ma per quello che riguarda Lufthansa è solo la Malpensa, diciamo, che pesa a favore della compagnia tedesca? Dal punto di vista politico penso che sia questo il motivo. Non credo infatti che ci sia una posizione del governo univoca su questo fronte, c'è una posizione dichiarata fin dall'inizio, per la verità, dalla Lega, c'è una posizione che Berlusconi ha appoggiato fin dalla campagna elettorale, che è quella di mantenere l'italianità, di mantenere l'asset di Malpensa. Non c'è una posizione del governo, ripeto, ci sono posizioni però forti all'interno del governo. La scelta la fa la CAI, la fa la società, e Berlusconi infatti ieri sera è dovuto intervenire in serata dopo le prime dichiarazioni per precisare questo punto. Il governo naturalmente può esprimere degli auspici, poi le scelte le farà l'azionista, cioè la CAI di Roberto Colaninno. E allora staremo a vedere, comunque dalle fonti che tu hai slitterà, o potrebbe con ogni probabilità slittare fino a fine anno, il nome del partner internazionale. Senza di quello non si va da nessuna parte, cioè è ovvio che l'operatività all'inizio verrà garantita dall'accordo che è ancora in vigore all'Italia con Air France, però poi per capire cosa sarà la nuova l'Italia bisogna capire con chi si allerà, e questo a oggi non è dato saperlo, nonostante tutti puntassero negli ultimi giorni su Air France. Grazie allora a Giovanni Bracco di Radio Colle sulle 24 ore, da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, l'auguro di una buona serata, ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Focus Economia.